E bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends, a microfono come sempre il vostro Jean-Luc, con il treno degli ospiti in studio è sempre stipato, e stasera dall'Emilia abbiamo una presenza femminile per una band in prevalenza tinta di rosa. A te la parola, Julie. Ciao a tutti da Julie Witch dell'Eroi Pnul Witch, un saluto Jean-Luc, CS Radio e Rock Legend, spero di passare una bella serata insieme a voi. E con Julie delle Rapid Witch, una prima parte dedicata al beat inglese e alla psichedelia degli anni 60, iniziando dagli Small Faces che dalla BBC Sessions ci hanno fatto ascoltare il brano Understanding del 1966. Band seminali per i mod inglesi degli anni 60, con un seguito di culto anche nei nostri giorni, non fosse solo per il carisma e il talento di Stevie Marriott. Che ne pensi? E appunto, stavamo parlando dei nostri giorni. Io, ti ripeto, non ho una grande cultura mod rock, però per quello che posso sapere ascolto più Northern Soul, soprattutto i miei amici, vari amici, siamo dette proprio ballerine di Northern Soul, e quindi so che c'è una scena ancora molto, molto viva, sia in Emilia dalle mie parti, poi c'è la scena romana. Ma anche da Ancona, quelle parti Ancona, lì. Poi certo. C'è d'estate invece in Riviera, anche alcune cose succedono da quelle parti. Quindi niente, per me è sempre una bella serata partecipare a ballare, insomma, questa musica. Ascoltarla mi fa anche piacere, quindi grazie anche a te Gianluca che mi fai ascoltare qualcosa in più. Le Rap New Witch sono assieme da 2002, come vi siete formate e perché avete scelto questo nome? Allora, Eroi Pnul Witch perché? Intanto, Witch, partiamo da Witch, allora strega, perché noi ci riteniamo un po' streghette, ci è sempre piaciuto il culto, no? Ovviamente niente di satanico, niente di scabroso. Riguardo i cartoni animati. Ecco, sì, più così, più la strega di, non so, della Bella Addormentata nel bosco. Via la magia. Sì, queste cose qui, però abbiamo sempre immaginato come le streghe, quindi le donne anticonvenzionali di un tempo, possono essere reinterpretate in chiave attuale come le rockettare di oggi, quindi le streghe in questo senso. Poi Rohypnol, che probabilmente sapete che è uno psicofarmaco, ma noi lo usiamo in senso, cioè non vogliamo avere niente a che fare con droghe, cose esatto. Così. Lo usiamo nel senso di ipnosi, no? Uno psicofarmaco che ipnotizza, quindi la strega che ipnotizza, poi insomma uno ci può leggere qualcosa dietro. La chiave, l'ispirazione del Rohypnol viene anche molto dall'ispirazione che ci è arrivata da Courtney Love e Kurt Cobain. Sappiamo qualcosa purtroppo di questa vicenda. Quindi niente, quando leggevamo la biografia di Courtney Love, che è poi quella che ci ha ispirato a suonare, leggevamo sempre questo Rohypnol, oppure Rohypnol, se vogliamo dirlo come ci dicono in Inghilterra. Esatto. E quindi l'abbiamo unito a Witch, e niente, è venuto fuori questo nome, ha questa chiave di lettura un po' strana, però a noi piace. Continuiamo con una piccola perla del freak beat di quella decade, popolata da migliaia di band che confezionavano brani intrisi di psichedelia e sperimentazione. I Children in Abbey di David McTavish e John Dalton registrano un unico 45 giri nel 1967, le cui quotazioni nei nostri giorni sono arrivate a toccare le 1000 sterline. Il lato A si chiamava Vacuum Cleaner. Everybody's got a new clothes. Make me feel kind of old. But in my heart I really know. Though clothes don't buy my soul. Fix me up with your sweet dose. Now I'm feeling like a ghost. Break it up, let's have it now. Girl, don't you know I need it all the time. Fix me up with your sweet dose. Now I'm feeling like a ghost. One time. Now my head is really spinning. Maybe now I'll show some willing to help you with housework. Big Walter, pick it up, bring it up, let's have it now, girl. Don't you know I need it all the time. Fix me up with your sweet toast. Now feeling like a ghost. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, time. We'll be right back. butter, got me clothes, make me feel kind of old. But in my heart, I really know. Old clothes don't buy my soul. Fix me up with your sweet dose. Now I'm feeling like it goes. Break it up, let's have it now, girl. Don't you know I need it all the time? Fix me up with your sweet dose. Now I'm feeling like it goes. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, time now. Il beat psichedelico di quegli anni affascina ancora per le sonorità particolari che i musicisti sono riusciti a tirar fuori nonostante non avessero mezzi tecnici eccelsi. Che ne pensi? Esatto, appunto, non avevano mezzi eccelsi, però hanno tirato fuori delle gran cose. Appunto, stavamo mimando prima mentre la canzone andava all'archetto. Se pensiamo che adesso ci sono gli bo, sai, quei, sì, quei mezzi, quegli aggeggi che si mettono sopra le corde della chitarra appunto per mimare, per richiamare queste sonorità, devo dire che allora erano proprio avanti. Oppure il theremin, no, che adesso si usa. È ritornato, diciamo, esatto, in auge un'altra volta. Sì, per richiamare proprio queste sonorità, quindi tanto di cappello questi gruppi che anzi hanno fatto proprio la storia. Vostre esibizioni come sono andate, quali più importanti in termini di esperienza e le impressioni che avete raccolto dal pubblico a fine dei concerti? So che avete questa importante iniziativa denominata Rock with Mascara. Esatto, allora le esibizioni Roy Null Witch singolarmente oppure insieme alle altre band femminili che raggruppiamo nel movimento Rock with Mascara, diciamo insomma sono andate abbastanza bene. Noi insomma non vogliamo stare qui a menarcela, però comunque adesso, secondo me qualcosa di differenza, la differenza la stiamo facendo, non tanto magari per qualità di musica, canzoni, insomma quello lì starà poi a voi decidere se vi piacciono o no, però secondo me ecco, creare una scena rock femminile in Italia è importante, perché come ben sai all'estero ce ne sono sempre state e molto brave, anche. Molto brave, ben riconosciute anche a livello di critica in Italia. Se pensiamo, ecco, al metal con la Crucified Barbara. Ah beh sì, si va qui appunto il gruppo più contemporaneo, però se andiamo ancora più indietro ce ne sono di ogni. E, tipo in le Fanny, tipo le Girl School, insomma. Ecco. A me si piacevano tantissimo allora le Seven, Babies in Thailand, addirittura a me piacevano tanto le Runaways, quindi si va ancora più indietro. In Italia siamo messi un po' male, ma a male non tanto perché non ce ne sono, anzi. È proprio questo il problema. Siamo veramente in tante, anche prima di noi Rob Nulwich, se ricordiamo le Mambo Rabos o Mumble Rumble come si vuol dire, le Tremende, le Bambole di Pezza. Insomma, la scena c'è, però purtroppo è forse sono i media che non ci danno spazio. Quindi Rock with Mascara serve a questo. Concludiamo questa prima parte con gli australiani Easy Beats, apristrada di tutto il rock della terra dei canguri e con al suo interno i futuri produttori degli AC/DC, Harry Vanna e George Young. Li riascoltiamo dal disco Friday on My Mind del 1967 con la canzone You, Me, We Love. A fra poco per la seconda. There was an old man who lived by the sea, who said, son, you're falling in love. He could tell by the way I sang every day. And he knew I'd fallen in love, fallen in love, fallen in love, fallen in love. Thank you.